Roberto stava ritornando al paese, faticando per gli acciacchi dell'età. Incontrò Madama Bianco che gli chiese del progetto nuovo alta velocità. Con passi lenti arrivarono alla chiesa, tutti quanti in 120 erano là. Con la rabbia dentro gli occhi lì in attesa, le ruspe avevano già lasciato la città. Arrivarono ingegneri e tecnici del ministero, si alzò dallo sterrato un polverone verso il cielo, si misero ad esporre a tutta la comunità innumerevoli vantaggi dell'alta velocità. Signori, avete tra le mani un'opportunità, l'ingegner si raccomanda, non lasciatela scappare, il ministero sarà pronto ad ascoltare con pazienza tutte le perplessità. Roberto lo ascoltava con la rabbia dentro al cuore, si era ormai stancato di ascoltare le sue parole. Alzò la mano e chiese all'uomo col caschetto in testa cosa significasse la sua inutile minestra. Esanotto un po' ignorante, lei mi manca di rispetto, non capisce l'importanza del mio splendido progetto. Certo è ovvio, voi farete il sacrificio per portare la mia linea fin lassù. Mezza parte del paese dovrà cadere giù. Può raccontarci che in questioni di interessi bisogna spesso scendere ad ingiusti compromessi, ma Roberto e i suoi compagni, fronte alla loro sentenza, decisero all'istante di opporre resistenza. La gente del paese era attaccata a questa terra, attaccata ad ogni sasso, ad ogni fiore o filo d'erba. Non credeva che in un giorno qualchedun potesse toglierle di mano la sua perla. Hey! Si sentirono le ruspe dal paese sottostante, in conseguenza lo sterrato occupato in un istante. L'ingegnere minacciò: se adesso non andate via, vi costringete a rubare del tempo alle forze di polizia. Ingegnere, non capisce, lei ha già perso questa guerra, non capisce che nessuno toccherà mai questa terra, non capisce che il suo mostro del progresso velocissimo di qua non passerà. Marceremo per le strade per combattere la TAV. Thank you.